Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. Il giorno dopo il voto in Ungheria, Bruxelles ribadisce la sua posizione sui migranti e parla direttamente a Budapest. Dopo il referendum in Ungheria che non ha raggiunto il quorum, Bruxelles non si scompone, anche se il 90% di chi è andato a votare ha detto no alle quote imposte dall'Europa, anche se il premier Orban insiste perché l'Europa tenga conto del segnale che arriva dal suo paese, Bruxelles rimane apparentemente imperturbabile. We respect the democratic will of the Hungarian people, both of those who voted. Rispettiamo la volontà degli elettori ungheresi, ha detto stamattina il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, ma come tutti sappiamo il referendum in Ungheria sulle quote obbligatorie di richiedenti asilo riguarda il futuro perché i ricollocamenti decisi sono legge e devono essere rispettati. Ieri il presidente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, aveva definito un gioco pericoloso quello del premier ungherese e aveva ricordato che gli ungheresi votavano su una decisione da Orban avallata in sede comunitaria riguardante l'accoglienza di solo circa 1.300 profughi sui 160.000 che devono essere smistati in partenza da Italia e Grecia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, 3 ottobre, è il terzo anniversario della strage di Lampedusa dove morirono 366 migranti. Verrà ricordata mercoledì a Strasburgo dagli eurodeputati con il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, che oggi ha già lanciato però un appello all'Europa dalle celebrazioni sull'isola. Una marcia per ricordare le 386 vittime della tragedia di 3 anni fa, ma anche per chiedere all'Europa di rispondere alle richieste di aiuto e non girarsi dall'altra parte. A Lampedusa, nella prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, hanno sfilato più di 200 studenti, italiani e stranieri, insieme agli abitanti dell'isola e a una ventina di sopravvissuti alla strage, persone che arrivano dal nord Europa e tornano sull'isola per non dimenticare un giorno terribile di cui non si deve perdere la memoria. Questo l'appello del sindaco Giusy Nicolini. Lampedusa come porta d'Europa non è la periferia dell'Europa, ma è la porta d'ingresso. Da qui deve partire un ragionamento completamente capovolto rispetto al diritto d'asilo, alle politiche migratorie e rispetto anche al clima che si respira nel nord Europa, dove si risponde coi muri e il filo spinato alla richiesta di aiuto da parte di bambini e gente disperata. Il primo cittadino porterà le sue richieste al Consiglio europeo di Strasburgo. In 3 anni sono più di 11.400 i migranti morti nel Mediterraneo. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Lampedusa anche la portavoce dell'UNHCR per il Sud Europa, Carlotta Sami, che chiede solidarietà a Bruxelles. Sentiamola al microfono sempre di Livia Zancanero. Chiediamo innanzitutto l'apertura di concreti canali legali per i rifugiati, per ottenere protezione in paesi del mondo sicuri, tra cui sicuramente i paesi europei. Chiediamo l'apertura di questi canali che di fatto già esistono. Esistono già le leggi, esistono già la possibilità di fare riunificazioni familiari, di fare reinsediamento, di dare permessi per motivi di salute ai più vulnerabili, ma vengono utilizzati ancora troppo poco. E poi chiediamo di intervenire nei paesi vicini a quelli da cui i rifugiati fuggono per sostenerli. All'Europa chiediamo di essere solidale al proprio interno, cioè di accogliere ciascuno per una parte i rifugiati che effettivamente arrivano soprattutto nel sud dell'Europa, primo fra tutti sicuramente l'Italia. E questa è una settimana cruciale per un altro tema europeo, perché partono oggi a New York quello che potrebbe essere l'ultimo round di negoziati del cosiddetto TTIP, l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, prima del suo congelamento, forse anche del suo abbandono definitivo con il cambio dell'amministrazione americana. Sul tavolo delle trattative, spiegano fonti europee, ci saranno solo le parti meno controverse. Da parte verranno messi tutti gli aspetti più sostanziosi e controversi del TTIP, per cui c'è bisogno di un'intesa politica che l'uscente team di Obama con le elezioni alle porte non può più dare. Obiettivo dei negoziatori europei è quello però di arrivare a fissare il testo dell'accordo in modo da congelarlo allo stadio più avanzato possibile, perché sia pronto per essere poi eventualmente ripreso dalla nuova amministrazione. Allora ci fermiamo qui, ne parleremo naturalmente nel corso di questa settimana. L'appuntamento con l'Europa, come sempre, questa sera a Effetto Notte. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.